Il 26 giugno casualmente scopriamo da un sito internet che il magazzino in cui questi lavoratori prestano la loro attività era stato messo in affitto. Dal 27 in avanti chiediamo continuamente di incontrare Nexiv, che è il committente, e WorkPiù, che è la società che ha l'appalto, e WorkPiù per la verità ci incontra e ci garantisce il fatto che non ci sono problemi di occupazione. Andiamo avanti di questo passo fino a metà settembre e il 17 settembre ci comunicano invece che al 30 settembre cesseranno le attività e quindi 49 lavoratori del sito di Bologna e 11 lavoratori del sito di Padova più i lavoratori di Nexiv perdono il posto di lavoro. Quindi tutto il contrario di quello che era stato assicurato in precedenza. Esattamente il contrario di quello che era stato assicurato in precedenza e questo è, diciamo così, il racconto di quello che è avvenuto, diciamo, in piccole dosi. Dopodiché quello che noi facciamo è questo, dunque Nexiv viene a novembre del 2020 assorbita da Poste Italiane. Il 17 giugno 2021 viene fatto un accordo CGIL e CISL UIL per l'armonizzazione, cioè i lavoratori Nexiv vengono passati alle stesse condizioni dei lavoratori di Poste Italiane. E il 23 settembre 2021 questo accordo viene ulteriormente definito, i lavoratori part-time a tempo determinato delle Poste vengono assunti a full-time con 36-40 ore di orario di lavoro. E quindi a questo punto finisce l'armonizzazione tra i lavoratori Nexiv e i lavoratori di Poste Italiane. Quello che è ovviamente inaccettabile è che il 23 settembre CGIL e CISL firmano un accordo con Poste sulla questione Nexiv e il 17 settembre i lavoratori di Nexiv dei siti di Bologna e di Padova vengono licenziati e questi lavoratori non fanno parte della trattativa e rimangono disoccupati. Quindi rimangono esclusi dalla trattativa di armonizzazione, solo loro? Solo loro. Mentre sappiamo, adesso lo stiamo valutando, che invece una cooperativa, che è quella dei recapiti, cioè sono i postini che portano la corrispondenza, i piccoli pacchi presso le abitazioni, sono passati sotto Poste Italiane. Quello che noi chiediamo è, uno, la riassunzione anche per i lavoratori di WorkPiù con Poste Italiane e quindi è l'apertura immediata di un tavolo a cui sia presente anche Poste, perché è chiaro che Poste non può continuare a chiamarsi fuori da questa vicenda. Oggi Poste è il nostro interlocutore e noi siamo qui per questo. Quindi qui siete davanti alle Poste qua a Piazza Minghetti proprio per richiedere un confronto e la risoluzione di questo conflitto e di questo trattamento discriminatorio nei confronti di questi 43 lavoratori. Sono 60 perché sono 49 a Bologna e 11 a Padova, anche perché questi lavoratori, il sito di Bologna è stato premiato, fu premiato allora come uno dei siti più produttivi. Questi lavoratori hanno lavorato e fatto lo straordinario durante la pandemia e alcuni di loro si sono anche ammalati, dopodiché ovviamente sono stati scaricati, come sta succedendo fin troppo spesso a Bologna. Ovviamente Poste dice noi abbiamo una trattativa nazionale, ma ovviamente della trattativa nazionale non ci sono. Allora noi abbiamo chiesto l'immediata apertura di un tavolo ministeriale con Orlando e abbiamo chiesto ai tre deputati di Bologna, De Maria, Critelli e Beneamati, di farci carico della convocazione di un tavolo, l'immediata assunzione dei lavoratori a Poste e ovviamente noi oggi siamo qua, ma poi abbiamo già fatto un blocco a CMP in via Zanardi e continueremo la nostra iniziativa fino a quando i lavoratori non si aprirà una trattativa con Poste Italiane per la riassunzione dei lavoratori. Da Poste Italiane in questo momento non vi sta arrivando alcuna risposta? Noi sono mesi che aspettiamo che prima Nexiv e poi Poste ci convochino, ma Poste Italiane ha detto che non ci incontra, ma non solo noi, neanche sulla questione Nexiv nessun sindacato.